A tempo di sport con Carlo Genta. Soldi, soldi, soldi, tanti soldi, beati siano i soldi, bene amati i soldi, perché chi tanti soldi vive come un pascià e piedi caldi se ne sta. Ma ce l'hai, so, perché veda, quei straordinari pochi tifosi che quando mi incontrano fanno cacci i soldi, anch'io dico al Tottenham, ma cacci i soldi, ce l'hai, perché a parlare si fa presto. Cacci i soldi! Adesso io prenderò in giro tutti quanti dicendo cacci i soldi! Anzi, mi devo trovare in napoletano un modo di dirlo in inglese. Ecco, spende the money! Chi tanti soldi vive come un pascià e piedi caldi se ne sta. Vabbè ragazzi, non ci sono dubbi, no? È Aurelio De Laurentiis, il mattatore del teatrino settimanale. Sarà un'estate secondo me tutta da ridere, lo faremo insieme. Questo è l'ultimo appuntamento per Tempo di Sport del sabato, l'ultimo appuntamento stagionale naturalmente, ma avremo modo di passare insieme tutta l'estate dalle 14 alle 15 con a Tempo di Sport da lunedì al venerdì, e vedrete che di risate ce ne faremo parecchie. La cronaca di oggi, un ultimo sabato peraltro particolarmente interessante dal punto di vista agonistico e non solo umoristico. Dicevo, la cronaca di questo sabato per ora l'avete sentita poco fa nel GR dalla bellissima voce di Rita D'Ambrosio, riguarda la Formula 1, questo incidente a Perez, nulla di rotto ma una terribile botta, voleva addirittura correre domani ma i medici ovviamente glielo impediranno, resta in ospedale, non ha fratture ma la botta è stata terribile. Come detto, Alonso e Massa dicono che lì la pista è pericolosa, ma tanto Monte Carlo e Monte Carlo, dunque sono grosso modo chiacchiera al vento. C'è il Giro d'Italia, ne parliamo tra 7-8 minuti con Pier Augusto Stagi, un'ultima tappa di montagna che ha partorito un topolino, vince il bielorusso Kirienka, lui bravissimo, i big non ne avevano evidentemente più, ma Contador è troppo forte per chiunque. Io tornerei al teatrino e al teatro. Teatrino, quello di De Laurentiis, noi abbiamo quello, altri, Barcellona e Man U, hanno invece il teatro dei sogni che si accenderà stasera, Wembley, per la finale di Champions League. È vero che sono, a proposito di soldi, due dei tre club più indebitati al mondo, l'altro è il Real Madrid, ma da imparare avremmo comunque moltissimo, non so cosa ne pensate voi, a cominciare da una filosofia che non può che fare invidia, allenatori di lungo corso, pazienza nel costruire i giovani, grandezza stabile e non occasionale. Nicola Roggero, voce di Sky, è nostro amico, buongiorno Nicola. Buongiorno, buongiorno a te e agli ascoltatori. Dichiarato tifoso del Man U. Stasera ho da quando ero bambino, anzi dall'anno terribile per il Manchester, quando retrocesse in seconda divisione nel 74, arrivando ultimo addirittura in quel campionato, quindi la mia scelta ha pagato dei dividendi dopo. Sì, io mi accodo almeno per stasera, ti farò Manchester United, te lo dichiaro, poi domani dalle 16.30 alle 19 raccolgo i cocci. Io ti dico la verità, Nicola, non mi aspetto, al di là del fatto che sono le due migliori squadre d'Europa, e su questo ci sono pochissimi dubbi perché mi pare che il percorso di questa Champions abbia detto la verità, non mi aspetto però una grandissima partita perché è troppo forte e troppo ben allenato il Manchester United per consegnarsi al gioco del Barcellona. Io credo che in Europa il Manchester United sia stata negli ultimi anni la squadra meno inglese in assoluto, se per inglese intendiamo un club con una filosofia molto offensiva. Il Manchester lo è stato nel precedente Manchester di Ferguson, quello in cui c'era già Giggs ovviamente, e c'erano Scholes, Stam, Keane, Schmeichel, insomma i famosi Calypso Boy, Cole York, la famosa coppia Sheringham Solskjaer che ribaltò in un minuto, sì, dopo il 90esimo la finale di Monaco. Beckham che crossava come un dio. Quella era una squadra spaventosamente offensiva, proprio in quell'anno, fra l'altro nel girone eliminatorio, il Manchester incontrò tra gli altri il Barcellona eliminandolo, le due partite terminarono 3-3 sia al Camp Nou che all'Old Trafford, e a mio parere raramente si è visto giocare così bene in Europa due squadre insieme, quindi il Manchester è molto diverso, è una squadra che specialmente in Europa ha acuito le sue caratteristiche difensive, non a caso l'elemento tattico più importante spesso è Park oppure lo scozzese Fletcher, cioè giocatori di rottura, giocatori che questa sera verranno inseriti per sperare di inceppare il meccanismo di possesso palla del Barcellona, e quindi credo che sia un Manchester che farà fare la partita al Barcellona più o meno come fece l'Inter l'anno scorso in semifinale, magari non in maniera così acuita, ma insomma credo che sarà il Barcellona della ripartita del gioco. Certo, lo penso anch'io, per questo non mi aspetto una partita di schiaffi a viso aperto, mi aspetto appunto un Manchester United che faccia il verso all'Inter dell'anno scorso quando costruì quel capolavoro a Barcellona che lanciò la squadra di Mourinho verso la Coppa. Il Manchester United comunque, Nicola, riesce sempre a rimanere grandissimo pur cedendo Cristiano Ronaldo, pur perdendo i pezzi, pur sapendo cambiare pelle continuamente e rinnovarsi, riesce a non perdere mai il filo con la sua grandezza. C'è un signore che mi sembra che ne capisca qualcosina di questo gioco, è un vecchio baronetto scozzese che qualcuno continua a dire questo è l'ultimo anno, questi sono gli ultimi fuochi. Io ho già espresso la mia opinione, a mio parere Ferguson dalla panchina del Manchester lo toglierà soltanto il becchino. È lui il segreto, è un uomo che quest'anno aveva fatto una campagna trasferimenti apparentemente molto sottotono, perché aveva preso Smalling, che era un giovane dal Fulham, difensore, aveva preso Hernandez, che adesso sono tutti bravi a scoprire, ma lui lo scoprì un anno e mezzo fa quando ancora giocava nel campionato messicano e ancora prima del mondiale. Però riesce sempre a riciclare delle squadre spaventosamente vincenti. Fra l'altro, dicevi prima, bene, è vero che è un club molto indebitato, attenzione però, nel caso del Manchester si tratta di un'operazione dei Glazer che praticamente hanno riversato come garanzia il Manchester United stesso alle banche nel momento dell'acquisto. In realtà, se uno va a valutare i conti anno per anno del Manchester, sono spaventosamente attivi. Quest'anno il fatturato del Manchester è cresciuto di un altro 30%. No, ma senso, sono i tre club che comunque hanno un maggior monte debiti, però sono anche i tre club che producono la maggiore quantità di denaro. No, appunto, quindi dicevo, ci vorrebbe il vostro Marco Bellinazzo, che è un grande esperto. Io spesso se lo sento con dovizia di particolari nella trasmissione di Gigi Garanzini, spiegare appunto i dettagli anche economici. Il Manchester appunto ha una situazione un po' differente dalle altre. Detto questo, ripeto, c'è questo signore che da 25 anni è il padrone assoluto di Old Trafford, che a mio parere è il grande segreto di questa squadra, anche per il modo in cui poi sa motivare la gente. Il Manchester ha un giocatore come Giggs, arrivato alla 22esima stagione in assoluto con questo club, ha un portiere come Van der Sar, 41 anni, che gioca stasera la sua ultima partita, che sarà la sua quinta finale di Champions League. Insomma, è uno che sa miscelare bene vecchi e giovani. Ma mica era quello che è stato mandato via con le pernacchie dalla Juve, forse suo fratello. Ma come al solito c'è sempre un po' troppa fretta. Ma per anni Van der Sar, quando le squadre italiane incontravano una formazione con Van der Sar, quindi essenzialmente il Manchester, ricordo i giornalisti italiani, era ma come il Manchester con Van der Sar tra i pari? Tiriamo in porta. Sì, ma si tratta di uno dei 4-5 portieri più forti degli ultimi 20 anni. Sì. Nicola, voglio chiederti, approfittando della tua presenza, un'ultima cosa in 20 secondi, che non riguarda il Manchester United e nemmeno il calcio, ma Usain Bolt, che mi è sembrato un po' arrugginito nel Golden Gala, e pensare che Usain Bolt arrugginito basta per battere il perdentone di lusso, Zafa Powell, ormai gli fa da spalla, Ma gli ha sempre fatto da spalla. Powell è uno straordinario atleta, ma purtroppo ha un temperamento agonistico praticamente nullo, e i 100 metri sono una gara che spesso si vince prima ancora di schierarsi sui blocchi. In questo senso era un maestro Maurice Green, era un maestro Linford Christie, ed era un maestro in passato Borzov, che era praticamente un uomo di ghiaccio. Bolt, guarda, io ho avuto l'occasione di intervistarlo in una one-to-one, come si dice in termini televisivi, cioè una faccia. Tu, esatto, un giorno prima del meeting di Golden Gala di Roma, e ho notato una muscolatura superiore al solito, quindi lui probabilmente quest'anno ha lavorato molto sulla potenza. Non so se è stata una grande idea, perché lui aveva questa straordinaria agilità che riusciva a mettere in pista. Vedremo se riuscirà a trasformare questa agilità anche in potenza. Per adesso direi di no. Non dimentichiamoci che uno che purtroppo quando corre il 9,91 sembra sia andato piano, sì, certo. Questo è il suo limite se l'è fissato lui correndo in 9,58 e poi in 19,19,200 sicuro. Nicola, ti ringrazio, buona finale. Grazie, da primo ascolto per Augusto Stagi, che oltre ad essere un grande amico parla di un altro mio grande sport che seguo con grande piacere, che è il ciclismo. Sì, anche se io sono un po' deluso, ti dico la verità. dalla tappa di oggi e dal giro in generale, perché insomma troppo forte Contador, forse un giro eccessivamente duro. Oggi lo spettacolo che c'è stato sul Colle delle Finestre, dove c'era una sorta di stadio naturale, è stato qualcosa di strepitoso, di fantastico, e poi chapeau a questo ragazzo Kirienka che ha fatto una strepitosa impresa. Allora, su questo non c'è dubbio. Nick, ci sentiamo nel corso dell'estate naturalmente. Volentierissimo, a presto. Ancora gli ascoltatori. Questo è Nicola Roggero, c'è un ascoltatore che si chiama Gigi e che manda un messaggio: io sto con De Laurentiis, allora stia con noi perché poi regaliamo altre chicche di settimanali di De Laurentiis, meravigliosa a mio parere. Se volete intervenire 800 24 00 24, traffico, poi torniamo. Perché io mi sono rotto i coglioni, adesso io dico ai tifosi di stare tranquilli, perché poiché il mercato non è ancora veramente nel fulcro, perché poiché andremo fino alla fine di agosto tutti quanti a braccetto, io non voglio sentire, io voglio che i miei tifosi abbiano le palle e quindi che non abbiano mai quel tremore addosso: oddio, che succede? Oddio, vendiamo Hamsik, oddio, vendiamo questo, oddio, no. Fermi. Voi lo sapete, la Gazzetta dello Sport è guidata da uno juventino. È strano che non ha messo il giocatore insieme alla Juventus. Forse stanno cercando di dribblare, ma potrei pensare, visto che, ripeto, il giornalista che ci segue è un tifoso della Juventus, può essere che stia camuffando tutto il gioco per portarla alla Juventus. E dato che io lo trovo veramente meraviglioso, guardate che domani ve li faccio risentire tutti questi, dalle 4:30 alle 7 avremo la finale di Champions League con risultato in mano, staremo aspettando Inter Palermo, l'invasione di palermitani all'Olimpico, tra l'altro i cancelli aprono alle 17, ingresso anticipato è notizia di poco fa. Avremo l'arrivo del Giro d'Italia, magari viene qui per Augusto Stagi, però io questi ve li faccio risentire ancora tutte quante domani, perché mi fa morire dal ridere, mi diverte moltissimo, io voglio divertirmi. Francesco da Genova, buonasera. Buonasera, io volevo chiedere un suo parere riguardo a un argomento che è diventato molto di moda tra i giornalisti, sì. E cioè in questi mesi, ad esempio il signor Garanzini, ma soprattutto la Gazzetta dello Sport, hanno evidenziato i problemi del calcio italiano, debiti, poco appeal di pubblico, calo di gioco, campioni che comunque non hanno più la voglia di venire in Italia. Beh, io ne hanno anche evidenziato i pregi di altri campionati. Beh, io credo che non sia così, io credo che ci sia solo una differenza con alcuni club, tipo Manchester e Barcellona. Però ad esempio la Gazzetta dello Sport diceva che se il fair play finanziario entrasse in vigore oggi, tutta l'alta aristocrazia del calcio europeo non potrebbe iscriversi alle coppe. Sì, a cominciare dalle due finaliste di questa sera, sì, accompagnate dal Real. Sì, certo. Io per fortuna, grazie al lavoro, giro tra Italia e Inghilterra. Sì. Ho visto anche alcune partite. Sinceramente non mi sembra che il Manchester City o il Liverpool, oppure anche il Villarreal, il Bayern Monaco, il Lille, giocano meglio di Napoli, Palermo, Udinese, Lazio, Inter. No, Francesco, sinceramente questa differenza così colossale non la vedo nemmeno io. L'unica cosa che posso notare, beh, poi se parliamo di ranking, di discorsi, di punteggi, di queste cose qui che comunque inficeranno a breve la nostra partecipazione alla Coppa Europea, è un'altra storia, però l'unica cosa che posso dire che mi dà un fastidio tremendo è la sufficienza con la quale le nostre squadre affrontano l'Europa League, perché quella, insomma, l'Europa League è stata dominata dalle squadre portoghesi. Non mi sembra che le squadre portoghesi siano più ricche delle nostre, più brave delle nostre, più forti delle nostre, che abbiano più campioni, più soldi o più componenti di questo tipo. Dunque si tratta semplicemente di atteggiamento, e quella veramente è una... Affrontare così l'Europa League è un insulto. Detto questo, anch'io non trovo... All'estero il calcio è organizzato in maniera diversa, soprattutto in Inghilterra e in Spagna viene gestito secondo altri criteri molto più moderni, manageriali, che si fondano su stadi di proprietà e su tutte queste cose che conosciamo bene. da un punto di vista strutturale il nostro calcio è una roba da terzo mondo, da un punto di vista agonistico secondo me non c'è tutta questa differenza tra la borghesia italiana e quella degli altri paesi, su questo sono d'accordo. Poi c'è un'elite di squadre, e le conosciamo bene, che sono attrezzate per vincere la Champions League e che formano un campionato a parte, sono corazzate dentro un piccolo stagno e non sono nemmeno dei competitor attendibili all'interno di un campionato. Poi magari come l'Inter quest'anno buca una stagione e si infila il Milan, che però così com'è non è strutturato per vincere la Champions League. Questi sono grosso modo i miei pensieri. 800240024, numero verde, parliamo di ciclismo. Voci dal Giro. Troviamo ovviamente la nostra voce del Giro, Pier Augusto Stagi, che ha appena visto finire questa tappa vinta da Kirienka con la montagna che partorisce un topolino, anche perché le energie io credo non c'erano proprio più. E topolino fa rima con lumicino, sono arrivati veramente con le energie ormai ridotte al minimo. Chi ne ha avuta tanto oggi è stato il bielorusso Vasily Kirienka, che ha fatto veramente una grandissima gara, è andato in fuga subito dopo una quarantina di chilometri e insieme a altri 12 fuggitivi, è stata in avanscoperta tutto il giorno e poi a 40 chilometri dal traguardo se n'è andato praticamente appunto sul Colle delle Finestre. Veramente ha macinato chilometri e velocità come pochi, tanto da arrivare da solo, solissimo, sorridente e commosso, perché questa vittoria è stata dedicata al suo ex compagno di squadra Tondo, morto qualche giorno fa per un incidente domestico, schiacciato dalla sua auto contro il cancello del garage. E una vittoria bellissima con 4 minuti e 43 secondi di vantaggio su il sorprendente Ruano, venezuelano Ruano dell'Androni Giocato, che ieri aveva vissuto una giornata molto difficile, invece oggi si è ripreso. Terzo Joaquin Rodriguez a 4,50, quarto un colombiano giovanissimo di 21 anni, Betancourt, di cui sentiremo ahimè parlare, dico ahimè solo perché è colombiano. Molto bene Scarponi, che ha giocato in difesa senza sprecare energie, senza fare colpi di pedalate eccessivi, e invece chi ha pagato dazio oggi è Vincenzo Nibali, che si deve accontentare, ormai è certo, del terzo posto a Milano, perché ha perso altri 21 secondi da Scarponi, quindi diciamo che domani sarà in linea di massima una passerella proprio dimostrativa, una passerella finale dove non dovrebbe succedere assolutamente nulla. Contador ha stravinto il giro, secondo Michele Scarponi e terzo Vincenzo Nibali, con questo John Gadet, sorpresa di questo Giro d'Italia, sì. Questo francese 32enne che fino a oggi era andato molto forte, molto bene solo nelle corse in mountain bike o in ciclocross, e invece è anche un ottimo stradista, l'ha dimostrato in questo Giro d'Italia. A proposito di cose che mi fanno ridere, Pier Augusto Stagi, l'attacco del pezzo di oggi di Maurizio Crosetti su Repubblica, l'avrai anche letto, lo rileggo per gli ascoltatori. Iniziava così: pare che oggi Alberto Contador vincerà il Sestriere pedalando su una bicicletta della Chicco, vestito da antico romano, corazza compresa, facendo roteare quattro palline come un giocoliere, impennando sulla ruota dietro e cantando a squarciagola la Montanara. Ma negli ultimi 20 metri si ricorderà che nel 2003 il suo collega e amico Malacarne gli aveva prestato 15 euro mai più rivisti. Allora, per sdebitarsi, Contador gli farà la carità della vittoria. Sul podio piangeranno tutti, anche Gimondi, Merckx e Auro Bulvarelli. Questo per dire che tappa di ieri, tira lungo questa pagina di Contador che regala vittoria al suo ex gregario. Davvero, pur non vincendo, tieni in mano qualunque tappa di questo Giro d'Italia. Tu torni a casa soddisfatto da questo giro oppure no? Ma io torno soddisfatto perché il Giro d'Italia è bello. Sì. Perché il giro è il giro, un po' come Sanremo e Sanremo. Il Giro d'Italia è stato molto bello, disegnato bene, abbiamo visto... Troppo duro secondo te? Troppo duro secondo te? No. Secondo me i grandi giri, soprattutto il Giro d'Italia, che ha la fortuna di avere dei grandi scenari, devono essere praticati e i grandi giri devono essere vinti dai grandi corridori. Ma certo che ci dà un po' fastidio la mare in bocca e che vince uno spagnolo, ma anche l'internazionale d'Italia di tennis, andiamo a vedere Nadal o Federer. Ma sai, io non sono particolarmente campanilista da questo punto di vista. Che vinco uno spagnolo, che vinco un grande campione come Contador mi sta pure bene, però sembra essere tornato ai tempi di Indurain. Quello che mi lascia un po' lì è che questo sia davvero inattaccabile, ma in maniera evidente, in maniera fin troppo solare, inattaccabile da tutti quanti. Carlo, però non so, nel MotoGP quando Valentino Rossi vinceva titoli mondiali a grappoli, con la facilità veramente, come ha scritto Maurizio Crosetti, per definire Contador come un ragazzino che gioca tra bambini, che fa quello che vuole, che decide quando attaccare, quando rincorrere, quando chi far vincere, una fuga, fa vincere. E d'altra parte, certo, ribadisco, Contador non è probabilmente simpatico quanto Valentino Rossi, ma è sicuramente un fenomeno dello sport, non del ciclismo, dello sport. Sì, sicuro. Poi, se ci diranno che c'è qualcos'altro, ce lo devono dire in maniera forte e chiara. Non ci hanno ancora detto cosa è successo un anno fa al Tour de France. Questo è il lato, ormai non è più una colpa però di Contador, è una colpa... Sì, di chi deve dirci cosa è successo e che ha posticipato, esatto, che ha posticipato la notizia di ieri o di ieri l'altro, di nuovo l'udienza, quindi non sono più 6, 7, 8 di giugno, ma sono chissà quando e la data non è ancora stata stabilita. Diciamocelo chiaramente, a me è più simpatico Contador di Lance Armstrong, ma non lo dico oggi perché Lance Armstrong c'ha l'FBI alle calcagne, l'ho sempre detto, perché questo faceva una gara all'anno, perché vinceva solo il Tour de France, ne ha 27. Beh, intanto il signor Contador mette il sesto grande giro consecutivo in bacheca, quindi sono sei. C'ha 28 anni, fai un po' i tuoi conti, cosa può arrivare a vincere Contador? Se non nasce nessuno, nei prossimi poco 5 anni può fare veramente quello che vuole e quindi può arrivare a vincere 7 tour, 5 giri e 4 vuelte. Sicuro, cioè, sicuro. Non solo, può anche vincere delle Liegi-Bastogne-Liegi e dei giri di Lombardia, come lui ha già detto, e secondo me è bello, lui vuole vincere perlomeno in un anno tutti i tre grandi giri. Questo è il suo prossimo obiettivo, questo... non è detto che non lo faccia quest'anno. Questa mi sembra una cosa veramente pazzesca, mi sembra davvero l'ultima frontiera del possibile. Se ci riesce, beh, ci alziamo in piedi tutti quanti in piedi e applaudiamo Contador, non ci sono dubbi su questo. Noi abbiamo già un appuntamento grosso modo privato, lo rendiamo anche pubblico, perché domani quando finisce la tappa e hai sbrigato le varie faccende, ti aspetto qui per parlarci, per guardarci in faccia e parlare un po' con gli ascoltatori. Ci proviamo. Faccio il possibile, non sono come Contador. Se mai ti fai portare da Contador sulla canna della bici. E guarda, stasera non fa conferenza stampa perché porta male, ha detto, quindi non sappiamo ancora l'aspetto in più, parlerà solo domani perché ha detto che bisogna parlare solo quando la gara è finita e adesso si prende l'elicottero e se ne va a Milano. Grande, grazie Piero Augusto, a domani in ogni caso, e poi dopo il GR delle 19 torniamo a riassumervi la giornata di oggi. Voi sapete la pentola, dunque, la pentola in cucina c'è una regola, io lo dico sempre, se voi volete fare sempre un piatto di pasta all'ultimo momento, per cui dovete tenere sempre il fuoco acceso e perlomeno 4 litri d'acqua che devono bollire. Poi, se a uno gli va un piatto di spaghetti, poiché ci vogliono dai 10 ai 14 minuti a seconda della trafila di bronzo che hai usato e quindi bisogna vedere pure la marca e compagnia bella, e poi la salsa non ci vuole nulla, perché la salsa straordinaria, se c'hai i pomodori buoni e il basilico fresco, in 5 minuti si fa. E allora voglio dire, tu in 20 minuti ti metti a tavola. Allora noi dobbiamo essere pronti a tenere la pentola sempre in ebollizione. Quindi noi siamo sul mercato con la pentola sempre pronta per cucinare i migliori spaghetti del mondo. Poi ci vogliono 20 minuti per attavolarsi. E state tranquilli che quando io mi attavolerò, vi telefonerò e vi dirò gong communication. Io voglio sentire non solo domani, ma tutta l'estate questa. No, questa è De Laurentiis, naturalmente, sempre in settimana a Radio Marte, in questo teatrino che, se va avanti così, se va avanti così, sarà una grande estate. Però c'è stata anche ieri sera, so che siamo in periodo di silenzio elettorale, non vogliamo dire niente sulle elezioni, però voglio farvi sentire, perché con le elezioni grosso modo non c'entra nulla, però Berlusconi ha chiuso a Napoli ieri sera la campagna elettorale con queste parole. Vi devo dire che poco fa all'Hotel Vesuvio mi hanno sottoposto e costretto ad assumere un altro impegno, lo vuoi sapere? Ovviamente sì. Mi hanno fatto giurare che il Milan non comprerà. Silenzio, silenzio, non si può parlare di altro, solo di Hamsik, però il Milan non comprerà Hamsik. Tra l'altro avrete letto o sentito De Laurentiis dire: ma se vuole Hamsik mi deve telefonare, mi conosce, mi deve telefonare. Ma tanto ha giurato che non lo compra, e quindi o giura il falso o non compra Hamsik. Delle due l'una. Giovanni, provincia di Macerata, poi Davide da Mantova. Giovanni, buonasera. Buonasera, salve. Salve. Seguo sempre la trasmissione, sono un benissimo, affezionato. Benissimo. Da senti, sabato prossimo non ci siamo, eh? Ah, quindi fino... No, torniamo. Sabato posso uscire. Sì, sì, assolutamente, ma può sentire anche in podcast, io credo. Ma comunque, da informazioni di servizio per lei, per tutti, torniamo con l'inizio del campionato per il weekend, ma io sono qui da lunedì a venerdì. Gigi Garanzini andrà in vacanza, io no, mai. Come al solito. Dica. Ok, importante. Dica. Senti, io volevo dire una cosa. Siccome siamo un periodo, no, che in Italia le cricche vanno di moda, sì, ahimè. Sì. Quindi in tanti campi, in tanti settori. Io ho visto girare adesso, ero in villeggiatura su una spiaggia a Rimini, una maglietta che faceva così, la cricca interista. Poi sotto faceva una somma, quindi faceva una somma di addendi, faceva Guido Rossi, sì, più Moratti, più Tronchetti, sì, uguale ladri di coppe e di scudetti. Io volevo sapere da lei, che è un giornalista serio, se sì, aveva un commento da fare su sta maglietta, anche a seguito delle dichiarazioni di Agnelli su tutta questa difficoltà a distanza di un anno a pronunciarsi su... Beh, Agnelli grosso modo non ha torto, perché di tempo ne è passata a sufficienza. La maglietta mi pare carina e ci sta. No, ma è carina e ci sta, azzeccata. Insomma, sì, stiamo parlando di calcio, fatto, no? Giovanni, stiamo parlando di calcio. Il calcio, come l'ho detto mille volte, prima o poi cambia anche paragone, come Palio di Siena, finché rimane in questi termini, che sono grosso modo goliardici e divertenti, io ci sto. Su questa vicenda tirata molto per le lunghe, Agnelli ha ragione. Io continuo a pensare che questo refrain, questo disco che si innesta tutte le volte nei momenti di maggiore difficoltà della Juventus, sia pure questa una strategia per convogliare il popolo della Juventus, che certo non ha molto da gioire intorno al campo la domenica allo stadio, per convogliarlo su un territorio che è comune e che è condiviso. Quindi, però sul ritardo ci sta, e ci sta anche quella maglietta. Davide da Mantova. Buonasera a tutti. Buonasera. Ascolti, intanto complimenti per la trasmissione. Grazie. E innanzitutto, Hamsik non mi sembra un filino sopravvalutato come giocatore. Nel senso, io ho degli amici napoletani, quindi guardavo spesso le partite del Napoli e notavo che Hamsik nelle partite decisive sparisce un attimino. È come Ibrahimovic in Coppa dei Campioni, parlo da tifoso milanista. Sì. Quindi, parlando di Hamsik al Milan, visto che abbiamo lasciato Pirlo alla Juve, mi sembra un... Io punterei più su Fabregas, se proprio devo spendere 30-40 milioni di euro. A parità di prezzo anch'io. Diciamo che Fabregas nei momenti decisivi, sì, secondo me può essere molto molto più importante. Poi un'altra domanda, Dallas, sì, o c'è o Miami? Dallas o Miami? Nel senso, per chi faccio il tifo o chi vince? Tutti e due, dai, diciamo. Faccio il tifo per Dallas perché è dall'inizio dell'anno che tifo contro gli Heat. Perché quella storia di LeBron James a me non è andata giù e quindi non mi piace nemmeno come giocano, quindi non mi sembra una squadra indimenticabile da vedere giocare. Dallas perché è il momento della maturità, della rivincita se volete, perché è un giocatore straordinario come Dirk Nowitzki, perché dopo un'epoca grosso modo perdente, da perdenti di lusso, meriterebbe questo titolo all'apice per poi cambiare, insomma, ma mi sto autoconvincendo perché secondo me vince Miami, quindi io farò il tifo per Dallas, però temo che vincerà Miami. Quanto a Damsic, se devo scegliere tra Damsic e Fabregas a parità di prezzo, io prendo Fabregas tutta la vita. Non lo so, Damsic di grandi partite non ne ha giocate poi tantissime nella sua carriera, perché il Napoli è arrivato a questi livelli in questo momento perché in Champions League non l'abbiamo mai visto, perché nei grandi duelli europei non l'abbiamo mai visto. Certamente è un giocatore molto interessante, no, non molto interessante, molto forte. Sarei curioso di vederlo in un impianto come quello del Milan. Credo possa essere un giocatore ideale per il Milan e per Allegri, questo sì. Comincio a salutare Filippo Maria Ricci intanto da Barcellona, dalla Spagna. Buon pomeriggio, sì, da Barcellona. Da Barcellona che si è svuotata come Milano a Ferragosto. Beh sì, in piazza rimangono però. Sì, quelli che sono rimasti vanno in piazza a vedere la partita, no? Esatto, o al Ministadio, no, in piazza proprio a indignarsi, sì. E al Ministadio a vedere la partita. Senti Filippo, adesso ho il traffico, subito dopo vorrei fare due chiacchiere con te su queste voci di Guardiola al Chelsea, che secondo me non sono vere. Ma anche su quello che è stato definito Hitler da Calderon. Sai chi è, no? Esagerato, Calderon. Vabbè, Calderon è esagerato, vale. Naturalmente. Ha detto una sciocchezza, naturalmente. Tira l'acqua al suo mulino, naturalmente. Il novello, no, Hitler è Giorgio Mourinho. Del Real Mourinho. Del Real Mourinho, naturalmente, dopo il traffico. Allora Filippo, dimmi se Guardiola domani, magari con tenendo per le orecchie la grande coppa, dice che va al Chelsea. Beh, adesso tutto questo è stato messo in moto dal grande guru Johan Cruyff nell'intervista di ieri alla Gazzetta. Certo. Perché il guru ha detto che il suo allievo potrebbe andare via e se parla Cruyff la gente ascolta. E trema. Però Guardiola continua a ripetere che ha promesso, oltre ad aver firmato un contratto per restare un altro anno, e io per il momento gli credo. E poi comunque lo vedo più in Italia che al Chelsea, questa è la cosa. Cioè, se dovesse andare via, per me viene in Italia. Perché? Perché gli piace. Ah. È un paese che gli è rimasto nel cuore. Ultimamente è andato via da Barcellona due volte negli ultimi due mesi, una volta è andato a Brescia, sì. Una volta è andato a Firenze, sì. Insomma, non è che è andato a Londra, non è come Mourinho che ha la nostalgia della Premier League e dice io andrò là prima o poi ci torno. Sì, vabbè, ma Mourinho però anche dice, perché in Italia cose, dove può andare? In Italia? All'Inter. All'Inter. Ma certo, ma secondo me torna all'Inter. Sai cosa ti dico? Io secondo me, poi adesso mi chiamano 100.000 ascoltatori, non ho tempo, ma domani ne avrò. Però l'anno prossimo torna all'Inter. Fa un altro giro in Spagna adesso che ha fatto vince. Tabula rasa, ha cacciato via tutti e per usare le parole di... Cos'è che ha detto Calderon? Aspetta che leggo le dichiarazioni perché ce le ho qui. Calderon ha detto consegnare il club a Mourinho è dai responsabili, l'insensato che lo ha fatto si chiama Florentino Perez. Calderon è naturalmente il predecessore di Florentino Perez, e poi ha detto anche Hitler fu acclamato da molta gente, ma dopo la presa del potere le cose andarono male, aveva ottenuto una forte adesione popolare ma parlava solo per se stesso e dietro le sue parole c'era più temerarietà che sensatezza. Anche dietro quelle di Calderon c'è più temerarietà che sensatezza, secondo me. Anche secondo me, Calderon è un personaggio completamente screditato, uscito malissimo dal Real Madrid, più o meno cacciato, con un impeachment, e ogni tanto parla, lui odia Fiorentino, no, però l'unica verità di tutto questo è che facciamo che siamo seduti a un tavolo di poker, Fiorentino è andato all in su Mourinho. Sì, sicuro. Cioè, adesso, Fiorentino alla fine è un tifoso. Lui spera che Mourinho lo faccia vincere, il fine giustifica qualsiasi mezzo, e così gli ha affidato il club, cioè sì. Ha cancellato la direzione generale. Sì. A Madrid non l'hanno presa benissimo però, No, i giornalisti no, i tifosi però sì. Sì. Cioè i tifosi sono tutti con Mourinho. Sì. i giornalisti molto meno, e quindi quello che uno legge sulla stampa è una cosa, però la reazione popolare è positiva, anche perché Valdano comunque faceva il dirigente, certo, è facile prendersela con lui. Però devo dire, è andato via con grande eleganza, insomma, senza dire nulla, senza far polemiche, poteva probabilmente dire qualcosa in più, non l'ha fatto, e adesso vediamo cosa succede. Certo, certamente Mourinho si è preso tutto il potere, ma anche tantissima pressione. È vero che è un pifferaio, sì, a lui piace, è un pifferaio magico, quindi non mi sorprende il fatto che il pueblo dei Blanco sia sulla scia di Mourinho, come tanti topolini dietro al pifferaio, non mi sorprende, ma nemmeno che la stampa sia invece dall'altra parte. Tu lo sai che ci sentiamo anche domani, vero? Come no? Domani vediamo, ci sentiamo. Se hai fatto festo, asciugato fiumi di lacrime. Lo scopriamo vivendo. Esatto. Siamo qui per questo, per vedere questo. A domani, Filippo, un abbraccio. A domani. Grazie. Grazie Filippo Maria Ricci. E per chiudere in bellezza, io torno sulla strada con Andrea Zorzi. Ciao Andrea. Ciao, ben ritrovato. Come stai? Bene, al solito. Sempre fa piacere. Ultimo sabato, poi dovrai venirmi a trovare in infrasettimanale. Volentieri. Poi riprendiamo con fine agosto. Non ti preoccupare, però per l'estate, come sai, va diversamente. Dove sei? Ho appena lasciato Napoli, dove siamo stati a visitare lo stadio Collana, che è un luogo veramente particolarissimo. Un po' perché è stato costruito tanti anni fa, fino agli anni 20, e poi a un momento cruciale durante la Seconda Guerra Mondiale, in cui la Wehrmacht lo requisì e divenne un campo di concentramento. Il che diede inizio alle quattro giornate di Napoli, in cui Napoli per prima in Europa si ribellò ai nazisti. Tutto questo in un luogo dello sport. Poi divenne la casa del Napoli, ci si racconta un aneddoto bellissimo di Concetto Lobello, il celeberrimo arbitro, che di fronte alla partita di Coppa Italia tra Napoli e Juve si trovò con un numero di persone, di spettatori inimmaginabile, e disse: se fate i bravi vi faccio sedere fuori dalle linee per terra e vicino al campo, basta che state buoni. E tutto il pubblico rimase buono a guardare la partita e dicevano: così sanno fare i napoletani. Sì. Adesso lì si gioca. Allora, prova a farla adesso. Sì, esatto, prova. Senti, in un centro in cui c'è campo di atletica, si gioca a calcio, a rugby, c'è la piscina, si fa scherma, pesistica, judo, ginnastica. Fino a un paio d'anni fa anche basket e pallavolo, ma la palestra è crollata. In che condizioni si trova? È molto utilizzato, non è brillante, nel senso che la manutenzione, devo dire, non è ad altissimo livello, però è un posto molto vivo, in un quartiere, il Vomero, bellissimo. Devo dire che a me è piaciuto molto questo vedere uno degli impianti che appartiene alla città, che fa parte della città, quindi una bella situazione, in un quartiere, devo dire, veramente molto bello, quindi storia, tanta attualità anche, qualche investimento per renderlo un pochettino più moderno non guasterebbe, ciononostante preferisco di gran lunga questi spazi a quelle cattedrali nel deserto che spesso si trovano in Italia. Sicuro. Andrea, in giro la gente parla di sta storia del mercato del Napoli, di Laurentiis e Berlusconi, di Amsic e Lavezzi. Noi abbiamo trovato, eravamo in questo posto stamattina, in cui appena messo fuori il naso dal recinto c'erano tanti vecchietti che giocavano a 3-7, sì, e per la verità erano disinteressati, almeno non parlavano di Amsic né di De Laurentiis, ma di quanti punti si insultavano reciprocamente. Sì. Poi c'erano questa strana cosa, c'è un liceo che ha la sede all'interno di questo stadio, e abbiamo visto oggi nel giro di 10 minuti tre ragazzi che piangevano. Abbiamo pensato che fosse questione di scrutini o di esami, perché mi ha sorpreso che ci fossero tre ragazzi che piangevano lamentandosi ad alta voce. Non ho idea quale sia la ragione, ma ha colpito il fatto che questo fosse accaduto a pochi minuti di distanza. Non ho notizie di calcio, nessuna. Nessuna notizia di calcio, questo è straordinario. Domani dove ti trovo? Siamo a Campobasso. Sì, facciamo una cosa legata ad un campo scuola di atletica, che è un progetto interessante del CONI degli anni 60 e 70, in cui dotarono tutti i capoluoghi di provincia di uno spazio utile a promuovere l'atletica. Ti dico anche che hanno fatto apposta a fare la buca dell'arco del peso al centro, per impedire che si potesse giocare a calcio, perché sennò dove c'è il calcio gli altri sport non possono attecchire. Devono aspettare che finisca la partita. Bravo, bravissimo, esatto. Senti, poi quando torni, naturalmente, vieni qui e facciamo i conti di tutto questo viaggio e ci racconterai con calma e nei dettagli quali tracce di sport hai trovato. Abbiamo tempo. Lo facciamo con calma, dai. Lo facciamo con calma, mio caro. Grazie Andrea, un abbraccio, ci sentiamo domani. Ciao. Buona giornata, ciao. Grazie ad Andrea Zorzi. Sentite, io ho ancora un frammento di De Laurentiis da farvi sentire. Non voglio lasciarvi in sospeso, non voglio farvelo mancare perché vi voglio bene. Come gioielli li metto in uno scrigno, fare in modo però di tenermi sempre vicino. Forse più che un supermercato è un negozio di bulgari, quindi perché i gioielli sono gioielli, quando entrano probabilmente vedono che non ci sono esposti come al supermercato dei prezzi e già quello li spaventa. Ma poi ragazzi, ma la vogliamo far finita? Ma sto fair play finanziario lo vogliamo osservare un po' tutti quanti o soltanto perché uno è il presidente del consiglio crede di potersene fregare delle regole e dei regolamenti? Questo fair play finanziario è uguale per tutti. Serve a tutti quanti perché è una regola mondiale, non l'ho stabilito io, non l'abbiamo stabilito in Lega, lo ha stabilito il signor Platini. Ragazzi, domani ci torniamo, ve lo prometto, su De Laurentiis, sul mercato, sulla finale di Champions League, dalle 16.30 alle 19, per l'ultima domenica anche in questo caso, poi c'è il basket, dalle 20.30 alle 21. Dunque, appuntamento domani, per il momento grazie a Giorgio Di Luca in redazione, a Paolo Corleoni in regia, buona serata e buona finale di Champions League.